Ormai erano passate 2 settimane da quando mamma non c'era più. E mio padre aveva deciso che era arrivato il momento di fare un po' di ordine. Perché è questo che si fa quando una persona cara scompare. Vuoi definire come sarà d'ora in poi. Fare in modo che il tuo cervello capisca come stanno realmente le cose. Riorganizzarti, partendo dalle cose più insignificanti. Mia mamma purtroppo è venuta a mancare quasi 2 anni fa e la cosa che mi manca più di lei sono gli abbracci. Sembra banale, ma non lo è, perché io non le chiedevo quasi mai aiuto quando avevo difficoltà, però lei se ne accorgeva lo stesso e la consideravo un po' l'ultima spiaggia, come la casa base in cui tornare, e il calore dei suoi abbracci col profumo sono la cosa che mi mancano di più. Così a me e alle mie zie toccò l'ingrato compito di tirare fuori dall'armadio tutti i vestiti appartenuti a mia madre per vedere quali volevamo tenere e quali dare in beneficenza. Apriamo un'anta dopo l'altra e via via riempiamo scatoloni su scatoloni. Non sapevo che mia madre possedesse tutti quei vestiti. Maglioni, magliette, camicie, abiti, tutto in rigoroso ordine, come piaceva a lei. Man mano tutto passava sotto i miei occhi in maniera freddamente razionale e meccanica, uno scudo vincente in questi casi. Avevamo già riempito 6 scatoloni quando, aperto un cassetto, lo trovo. È un maglione a maniche corte, giallo, con delle piccole fragole rosa stampate sopra. Era uno di quelli comodi che lei metteva per stare in casa, per pulire, per cucinare. Ha qualcosa di familiare. Lo tengo tra le mani, lo accarezzo ed improvvisamente vengo avvolta da un mare di ricordi. Potevo vederla davanti a me, come se fosse proprio lì, con indosso quel maglione, con quella sua tipica espressione gentilmente sospettosa che aveva sempre. Potevo ricordare tutte le volte che, dopo aver preso un brutto voto a scuola, andavo da lei, in cucina, dove in genere aveva addosso quel maglione, e mi avvicinavo come una ladra. Lei dallo sguardo aveva già capito tutto, e io le dicevo con un filo di voce: «Mamma, ho preso 4 in greco». E lei mi guardava in maniera storta ma gentile, un po' per rimproverarmi e un po' per dirmi che la prossima volta sarebbe andata meglio. Potevo ricordare tutte le volte che la trovavo a riordinare la casa e pulire. Mi faceva arrabbiare perché buttava sempre via tutto, perché si alterava per ogni minimo accenno di disordine. Non la capivo quando, arrivata a casa dopo il lavoro, quasi non ci salutava nemmeno e cominciava a riordinare. Ora invece capisco perché, da quando non c'è più lei, la casa è diventata un vero e proprio campo di battaglia. Potevo ricordare bene tutte quelle volte in cui, qualsiasi cosa accadesse, con addosso quel maglione, tornando a casa, la trovavo intenta a cucinare per noi. Di mia mamma in me c'è di sicuro il mio aspetto, perché le somiglio molto, questo un po' lo dicono tutti, ma sicuramente c'è anche una sorta di gentilezza e disponibilità nei confronti degli altri che lei aveva sempre e che ritrovo anche in me, questo dire sì a tutti comunque, anche a volte perdendoci. E tra i difetti il fatto che tutte e due siamo entrambi molto petulanti. Poteva essere successo un cataclisma, potevo averne combinata una delle mie. Poteva aver detto una brutta giornata. Poteva aver avuto una brutta giornata al lavoro o essere sommersa dalle cose da fare. Ma tutte le volte non ci faceva mai mancare un piatto fumante e delizioso a tavola. Non lo faceva per dovere, era la sua forma di amore più grande, il suo modo per dirci che ci voleva bene. Ricordai ogni piccolo gesto di quella quotidianità ormai troppo lontana che sicuramente non avrei più potuto rivivere. Abbracciai forte quel maglione, abbracciai forte quei ricordi perché non scappassero via. Sorrisi e rimisi il maglione nel cassetto.